C'è un territorio indeciso. Non è luce né ombra. È tempo. Lima i confini delle cose. Un fiume oscuro. Ostinato e morbido. La realtà si allontana. Parlo con me.